Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Capitolo 30. La fuga. Partito il tenente, Sandokan si era seduto sull'ultimo gradino della scala con la testa stretta fra le mani, immergendosi in pensieri profondi. Un dolore immenso traspariva dai suoi lineamenti. Se fosse stato capace di piangere, non poche lacrime avrebbero bagnate le sue gote. Yuyoko si era accoccolato a breve distanza guardando con ansietà il suo capo. Vedendolo assorto nei suoi pensieri, non aveva più osato interrogarlo sui suoi futuri progetti. Erano trascorsi 15 o 20 minuti quando il boccaporto tornò ad alzarsi. Sandokan, vedendo entrare uno sprazzo di luce, si era precipitosamente alzato guardando verso la scala. La donna scendeva rapidamente. Era la giovane dai capelli d'oro, pallido, grimante. Il tenente l'accompagnava, tenendo però la destra sul calcio d'una pistola che aveva messa nella cintura. Sandokan era scattato in piedi mandando un urlo e si era slanciato verso la fidanzata stringendosela forsennatamente al petto. «Amor mio!» esclamò, traendola dalla parte opposta della stiva mentre il comandante si sedeva a mezza scala con le braccia incrociate e la fronte abbuiata. «Finalmente ti rivedo!» «Sandokan!» mormorò ella scoppiando in singhiozzi. «Credevo di non rivederti mai più!» «Coraggio, Mariana, non piangere, crudele! Tergi queste lacrime che mi straziano!» Ho il cuore infranto, mio prode amico. Ah, non voglio che tu muoia, non voglio che ti separino da me. Io ti difenderò contro tutti, io ti libererò. Io voglio che tu sia ancora mio. Tuo, esclamò egli emettendo un profondo sospiro. Sì, ritornerò tuo, ma quando? Perché quando? Ma non sai, sventurata fanciulla, che mi portano all'Abuan per uccidermi. Ma io ti salverò. Tu, sì. «Forse se mi aiuterai...» «Hai un progetto, adunque!» esclamò ella, delirante per la gioia. «Sì, se il Dio mi protegge, ascoltami, amor mio!» Lanciò uno sguardo sospettoso sul tenente che non si era mosso dal suo posto. Poi, traendo la giovanetta più lontano che era possibile, le disse: «Progetto una fuga e ho speranza di riuscire, ma tu non potrai venire con me!» «Perché, Sandokan, dubiti che io non sia capace di seguirti!» Temi forse che mi manchi il coraggio per affrontare i pericoli? Sono energica e non temo più nessuno. Se vuoi, pugnalerò le tue sentinelle o farò saltare questo vascello con tutti gli uomini che lo montano se è necessario. È impossibile, Marianna. Darei mezzo del mio sangue per condurti meco, ma non lo posso. Mi è necessario il tuo aiuto per fuggire o tutto sarà vano, ma ti giuro che non rimarrai molto tempo fra i tuoi compatrioti. Dovessi levare con le mie immense ricchezze un esercito e guidarlo contro l'Abuan. Marianna si nascose il capo fra le mani e grosse lacrime inondarono il suo bel viso. Rimanere qui senza di te, mormorò con voce straziante, è necessario, mia povera fanciulla, ascoltami, ora. Si trasse dal petto una microscopica scatoletta e aperta la mostrò a Marianna alcune pillole d'una tinta rossiccia e che tramandavano un odore acutissimo. «Vedi queste pallottoline?» le chiese. «Contengono un veleno potente, ma non mortale, che ha la proprietà di sospendere la vita in un uomo robusto per 6 ore. È un sonno che somiglia perfettamente alla morte e che inganna il medico più esperto. E cosa vuoi fare?» Io e Yuyoko ne inghiottiremo una ciascuno. Ci crederanno morti, ci getteranno in mare, ma poi risusciteremo liberi sul libero mare. Ma non vi annegherete? No, poiché io conto su di te. Cosa devo fare? Parla, comanda, Sandokan, sono pronta a tutto pur di rivederti libero. Sono 6, disse il pirata estraendo il suo cronometro. Fra un'ora io e il mio compagno inghiottiremo le pillole e manderemo un acuto grido. Tu marcherai esattamente sul tuo orologio il minuto secondo in cui quel grido sarà emesso, conterai 6 ore e 2 secondi prima di farci gettare in mare. Procurerai di lasciarci senza amaca e senza palla ai piedi e cercherai di gettare qualche galleggiante in mare onde ci possa poi giovare e possibilmente vedrai di nascondere qualche arma sotto le nostre vesti. Mi hai compreso bene? Ho scolpito tutto nella mia memoria, Sandokan. Ma dopo, dove andrai? Ho la certezza che Yanez ci segue ed egli ci raccoglierà. Poi radunerò armi e pirati e verrò a liberarti, ovvero si sporrerà Blanco a fare fuoco e sterminare i suoi abitanti. Si arrestò cacciandosi le unghie nelle carni. Maledetto sia il dì in cui mi chiamai la tigre della Malesia, maledetto sia il giorno in cui divenni vendicatore e pirata, scatenando su di me l'odio dei popoli che si frappone come orribile spettro fra me e questa divina fanciulla. Se non fossi mai stato l'uomo sanguinario, almeno non sarei stato incatenato a bordo di questo legno, né trascinato verso il patibolo, né mai diviso da questa donna che così immensamente amo. Sandokan, non parlare così. Sì, hai ragione, perla di Labuan. Lascia che ti contempli un'ultima volta, disse vedendo il tenente alzarsi e avvicinarsi. Sollevò il biondo capo di Marianna e la baciò in viso come un forsennato. Quanto ti amo, sublime creatura, esclamò egli fuor di sé, e bisogna separarci. Soffocò un gemito e si terse rapidamente una lagrima che gli rotolava sulla bruna guancia. Parti, Marianna, parti, disse bruscamente. Se tu rimanessi, io piangerei come un fanciullo. Sandokan, Sandokan. Il pirata si nascose il viso fra le mani e fece due passi indietro. Ah, Sandokan, esclamò Marianna con accento straziante. Volevo accentarci verso di lui, ma le forze le vennero meno e cadde fra le braccia del tenente che si era avvicinato. Partite, gridò la tigre della Malesia volgendosi altrove e celandosi il viso. Quando si rivolse, il boccaporto era già stato abbassato. Tutto è finito, esclamò con voce triste. Non mi rimane che di addormentarmi sulle onde del mar malese. Possa un giorno rivedere felice colei che amo tanto. Si lasciò cadere ai piedi della scala col viso fra le mani e rimase così quasi un'ora. Giuyocolo lo strappò da quella muta disperazione. Capitano, disse, coraggio, non disperiamo ancora. Sandokan si alzò con un gesto energico. Fuggiamo, non domando di meglio. Estrasse la scatoletta e levò due pillole porgendone una al Dayako. Bisogna inghiottirla al mio segnale, disse. Sono pronto. Estrasse l'orologio e guardò. Sono le 7:02, riprese Sandokan. Fra 6 ore noi torneremo in vita sul libero mare. Chiuse gli occhi e inghiottì la pillola mentre Giuyoko lo imitava. Tosto si videro quei due uomini contorcersi come sotto un violento e improvviso spasimo. Quindi stramazzare al suolo, emettendo due acuti urli. Quelle grida, malgrado lo sbuffare della macchina e il fragore delle onde sollevate dalle possenti ruote, furono udite in coperta da tutti e anche da Marianna, che già le attendeva in preda a mille ansie. Il tenente discese precipitosamente nella stiva, seguito da alcuni ufficiali e dal medico di bordo. Ai piedi della scala urtò contro i due creduti cadaveri. «Sono morti», disse. «Quello che temevo è avvenuto». Il medico li esaminò. Ma quel brav'uomo non poté far altro che constatare la morte dei due prigionieri. Mentre i marinai li sollevavano, il tenente risalì in coperta e si avvicinò a Marianna, che si teneva appoggiata alla murata di babordo, facendo sforzi sovrumani per soffocare il dolore che lo opprimeva. «Milady», le disse, «una disgrazia è toccata alla tigre e al suo compagno. Lo indovino, sono morti». «È vero, Milady». «Signore», disse ella con voce rotta ma energica, «vivi appartenevano a voi, morti appartengono a me. Vi lascio libera di fare di loro ciò che meglio vi aggrada. Ma vi ho dato un consiglio». «Quale?» «Fateli gettare in mare prima che l'incrociatore giunga a Labuan. Vostro zio potrebbe far appendere Sandokan, sebbene morto. Accetto il vostro consiglio. Fate portare i due cadaveri a poppa e mi lasci sola con loro». Il tenente s'inchinò e diede gli ordini necessari onde si eseguisse la volontà della giovane lady. Un momento dopo, i due pirati venivano collocati su due tavoli e portati a poppa, pronti ad essere gettati in mare. Marianna si inginocchiò accanto a Sandokan, irrigidito, e contemplò mutamente quel volto scomposto dalla potente azione del narcotico, ma che conservava ancora quella maschia fierezza che incuteva timore e rispetto. Attese che nessuno facesse a lei osservazione e che le tenebre fossero calate, poi si trasse dal corsetto due pugnali e li nascose sotto le vesti dei due pirati. «Almeno potrete difendervi, o miei valorosi», mormorò ella con profonda emozione. Poi si assise ai loro piedi, contando sull'orologio, ora per ora, minuto per minuto, secondo per secondo, con pazienza inaudita. Alle 1:20 si alzò pallida ma risoluta. S'avvicinò alla murata di babordo e, non vista, staccò due salve. Poi si diresse verso prua e, fermandosi dinanzi al tenente che pareva l'attendesse, «Signore», disse, «si compia l'ultima volontà della tigre della Malesia». Ad un ordine del tenente, quattro marinai si recarono a poppa e alzarono le due tavole su cui posavano i cadaveri fino al capo di banda. «Non ancora», disse Marianna, rompendo in pianto. S'avvicinò a Sandokan e posò le labbra su quelle di lui. Sentì a quel contatto un lieve tepore e una specie di fremito. Un momento di esitazione e tutto era perduto. Retrocesse rapidamente e con voce soffocata disse «Lasciate andare!». I marinai alzarono le due tavole e i due pirati scivolarono in mare inabissandosi nei neri flutti, mentre il vascello si allontanava rapidamente, portando la sventurata giovanetta verso le coste dell'isola maledetta. When all the leaves have fallen and turned to dust, well, we remain. Capitolo 31. Verso le tre isole. La sospensione della vita, come aveva detto Sandokan, doveva durare 6 ore, né un secondo di più né un secondo di meno, e così infatti doveva essere, poiché appena inabissatisi i due pirati tornarono prontamente in loro senza provare la menoma alterazione di forze. Ritornati a galla, con un vigoroso colpo di tallone girarono subito gli occhi intorno, scorsero l'incrociatore che si allontanava a piccolo vapore verso oriente. Primo moto di Sandokan fu quello di inseguirlo, mentre Jiuyoko, ancora tutto stordito da quella strana e per lui inesplicabile risurrezione, prendeva prudentemente il largo. La tigre si arrestò però quasi subito, lasciandosi dondolare tra le onde, ma con gli occhi fissi su quel legno che gli rapiva la disgraziata fanciulla. Un urlo soffocato gli irruppe dal petto e gli si spense fra le increspate labbra. «Perduta!» esclamò con voce semispenta dal dolore. Un impeto di follia lo prese e per qualche tratto si mise a inseguire il vapore, dibattendosi furiosamente fra le acque. Poi si arrestò, guardando sempre il vascello che a poco si perdeva tra le tenebre. «Tu mi fuggi, orribile nave, portando teco la metà del mio cuore, ma per quanto l'oceano sia ampio ti raggiungerò un giorno e squarcerò i tuoi fianchi». Si rovesciò rapidamente sui flutti e raggiunse Jiuyoko, che lo aspettava ansiosamente. «Andiamo», disse con voce strangolata. «Ormai tutto è finito». «Coraggio, capitano, noi la salveremo, e forse più presto di quello che lo crediate». «Taci, non riaprire la ferita che sanguina. Cerchiamo il signor Yanez, capitano». «Sì, cerchiamolo, perché lui solo può salvarci». Avevano già percorso un buon miglio e già cominciavano a sbarazzarsi delle vesti per essere più liberi nei movimenti quando Jiuyoko urtò un oggetto che cedette. «Un pesce cane!» esclamò egli rabbrividendo e levando il pugnale. «Dove?» chiese Sandokan. «Ma no, non è uno squalo!» riprese il Dayako. «Mi sembra un gavitello!» «È un salvagente gettato da Marianna!» esclamò Sandokan. «Ah, divina fanciulla! Speriamo che non sia solo!» «Cerchiamo, amico mio!» Si montare all'ingiro, cercando dovunque, e riuscirono dopo pochi minuti a trovare l'altro, che non era sì troppo allontanato dal primo. Ecco una fortuna che non mi aspettavo, disse Jiyoko con tono allegro. Dove ci dirigeremo ora? Continuarono a nuotare l'uno vicino all'altro per un'altra ora, scrutando sempre attentamente l'orizzonte e guardandosi intorno per paura di vedere comparire i temuti squali. Poi entrambi sostarono, guardandosi l'un l'altro. Hai udito? Chiese Sandokan. Sì, rispose il Dayako. Il fischio d'una nave a vapore, è vero? Sì, capitano, sta fermo. S'appoggiò alle spalle del Dayako e con una spinta uscì più di mezzo fuori dall'acqua. Guardando verso il nord, vide due punti luminosi solcare il mare ad una distanza di 2 o 3 miglia. Una nave si avanza verso di noi, disse con voce un po' commossa. Allora possiamo farci raccogliere, disse Jiyoko. Noi non sappiamo a quale nazione appartenga e se è mercantile o da guerra. Da dove viene? Dal nord. Rotta pericolosa, mio capitano. Così la penso anch'io. Può essere qualche nave che ha preso parte al bombardamento di Monpracem e che va in cerca del prao di Yanez. E la lasceremo andare senza farci raccogliere? La libertà costa troppo cara per perderla nuovamente, Jiyoko. Se noi venissimo nuovamente presi, più nessuno ci salverebbe e dovrei rinunciare per sempre alla speranza di rivedere Marianna. Ma può essere una nave mercantile. Non siamo sulla rotta di quei legni. Vediamo un po' se si può distinguere qualche cosa. Tornò ad appoggiarsi sulle spalle di Jiyoko, guardando attentamente dinanzi a sé. Non essendo la notte molto oscura, poté distinguere chiaramente la nave che muoveva loro incontro. Non un grido, Jiyoko, esclamò, ricadendo in acqua. È un legno da guerra, di questo son certo. Grosso. Un incrociatore, mi sembra. Sarà inglese. Non dubito sulla sua nazionalità. Lo lasceremo passare. Non possiamo fare assolutamente nulla. Preparati ad immergerti, poiché quella nave passerà a poca distanza da noi. Presto, abbandoniamo il salvagente e teniamoci pronti. Cosa cerchi? Gli chiese Sandokan. Là, guardate, verso il nord-ovest, urlò Jiyoko. Per Allah, vedo una grande ombra, un veliero. Yanez, forse, chiese Sandokan con viva emozione. L'oscurità è troppo profonda per ben discernerla, ma sento che il cuore mi batte forte, capitano. Lascia che salga sulle tue spalle. Il Dayako si avvicinò a Sandokan. Uscì più di mezzo fuori dalle onde. Cosa vedete, capitano? È un prao. Se fosse lui, maledizione, perché imprecate? Sono 3 i legni che si avanzano. Siete certo, sicurissimo, che Yanez abbia trovato dei soccorsi? È impossibile. Cosa facciamo dunque? Sono 3 ore che nuotiamo e vi confesso che comincio a essere affranto. Ti comprendo. Amici o nemici, facciamoci raccogliere. Chiama aiuto. Jiyoko radunò le proprie forze e con voce tuonante gridò: «Oè, della nave! Aiuto!» Un momento dopo si udì al largo un colpo di fucile e una voce che gridava: «Chi chiama? Naufraghi!» Aspettate, si videro tosto i 3 legni virare di bordo e avvicinarsi rapidamente, essendo il vento alquanto forte. Dove siete? Chiese la medesima voce di prima. A costa, rispose Sandokan. Tenne dietro un breve silenzio, poi un'altra voce esclamò. Per Giove, o mi inganno assai, o è lui. Chi vive? Sandokan con una spinta uscì dalle onde fino a mezzo corpo gridando. Yanez! Yanez, sono io, la tigre della Malesia! A bordo dei 3 legni partì un solo urlo. Viva il capitano, viva la tigre! Il primo prao di Gicimon si sparavano sul ponte con la rapidità di 2 veri quadrumani. Un uomo si avventò contro Sandokan, stringendoselo al petto con frenesia. Ah, mio povero fratello, esclamò, credevo di non rivederti mai più. Sandokan strinse il bravo portoghese mentre gli equipaggi gridavano sempre: Viva la tigre! Vieni nella mia cabina, disse Yanez, tu devi narrarmi tante cose che desidero ardentemente di conoscere. Sandokan lo seguì senza parlare e discesero nella cabina mentre i legni proseguivano la via a tutte vele spiegate. Il portoghese sturò una bottiglia di gin e la porse a Sandokan, che vuotò uno dietro l'altro parecchi bicchieri. Orsù, narra, come mai ti ho raccolto in mare mentre ti sospettavo prigioniero o morto a bordo del piroscafo che da 20 ore seguo accanitamente? Ah, tu seguivi l'incrociatore. L'avevo sospettato. Per Giove dispongo di 3 legni e di 120 uomini e vuoi che non lo seguissi? Sono caduto sul ponte del legno nemico, mezzo accoppato da un colpo di mazza e poi fatto prigioniero assieme a Juyoko. Le pillole, che come tu sai portavo sempre addosso, mi salvarono. Comprendo, disse Yanez, scoppiando in una risata, vi hanno gettati in mare credendovi morti. Ma di Marianna cosa successe? È prigioniera sul corpo, con voce cupa. Chi guidava il vascello? Il baronetto. Ma nella mischia l'uccisi. Me l'ero immaginato, per Bacco, che brutta fine ha fatto quel povero rivale. Cosa pensi di fare ora? Cosa faresti tu? Io seguirei il piroscafo e l'aborderei. È ciò che volevo proporti. Sai dove si dirige il vascello? Lo ignoro, ma mi pare che navigasse verso le tre isole quando io lo lasciai. Cosa andrà a fare colà? Qui Gatta Cicova, fratellino mio, camminava molto? Filava 8 nodi all'ora. Quale vantaggio può avere su di noi? Forse possiamo raggiungerlo se il vento si mantiene buono, ma... Egli si fermò udendo sul ponte un movimento insolito e un vociare acuto. Cosa succede? Chiese. Che abbiano scoperto l'incrociatore. Saliamo, fratellino mio. Abbandonarono precipitosamente la cabina e salirono in coperta. Proprio in quel momento alcuni uomini stavano traendo dall'acqua una cassetta di metallo che un pirata alla prima luce dell'alba aveva scorta a poche dozzine di metri dal tribordo. «Ah!» esclamò Yanez. «Cosa vuol dire ciò? Che contenga qualche documento prezioso, non mi sembra una scatola comune. Noi siamo sempre sulla velocità del piroscafo, è vero?» chiese Sandokan, che senza sapere il perché si sentiva agitato. «Sempre!» rispose il portoghese. «Se fosse... che cosa?» Sandokan, invece di rispondere, estrasse il kris e con un colpo rapido sventrò la scatola. Tosto nell'interno si scorse una carta un po' umida, sì, ma sulla quale si rilevavano nettamente alcune righe di una calligrafia fine ed elegante. «Yanez! Yanez!» balbettò Sandokan con voce tremante. «Leggi, fratellino mio, leggi!» Mi pare di essere diventato cieco. Il portoghese gli tolse la carta e lesse «Aiuto!» Mi trasportano alle tre isole dove mi raggiungerà mio zio per condurmi a Sarawak, Marianna. Sandokan nell'udire quelle parole emise un urlo di belva ferita, alzò il braccio cacciandosi le mani nei capelli che si strappò con furore e vacillò come se fosse stato colpito da una palla. «Perduta, perduta, il Lord!» esclamò. Yanez e i pirati lo avevano circondato e lo guardavano con ansietà, con profonda commozione. Pareva che soffrisse le medesime pene che dilaniavano il cuore di quello sventurato. «Sandokan!» esclamò il portoghese. «Noi la salveremo, te lo giuro. Dovessimo abbordare il legno del Lord di Sarawak e James Brooke, che la governa». La tigre, un istante prima abbattuta da quel fiero dolore, scattò in piedi col viso contraffatto e gli occhi in fiamme. «Tigri di Monpracem», tuonò egli, «abbiamo dei nemici da sterminare e la nostra regina da salvare. Tutti alle tre isole. Vendetta!» urlarono i pirati. «Morte agli inglesi e viva la nostra regina!» Un istante dopo i tre praos viravano di bordo veleggiando verso le tre isole.